Quella che segue è una lettera di Alba de Céspedes, direttrice della rivista Mercurio, all'amica Natalia Ginzburg in risposta al suo discorso sulle donne pubblicato dalla stessa rivista nel 1948. Mia carissima, voglio scriverti due parole appena finito di leggere il tuo articolo. È così bello e sincero che ogni donna specchiandosi in esso sente i brividi gelati nella schiena. Tuttavia, per un momento avevo pensato di non pubblicarlo, temendo di commettere un'indiscrezione verso le donne nel rivelare questo loro segreto. Inoltre pensavo che gli uomini lo avrebbero letto distrattamente o con la loro vena di ironia, senza intuire l'accorata disperazione e il disperato vigore che è nelle tue parole, e avrebbero avuto una ragione di più per non capire. Anch'io, come tutte le donne, ho grande e antica pratica di pozzi. Mi accade spesso di cadervi e vi cado proprio di schianto, appunto perché tutti credono che io sia una donna forte e io stessa, quando sono fuori dal pozzo, lo credo. Ma al contrario di te, io credo che questi pozzi siano la nostra forza, poiché ogni volta che cadiamo in un pozzo, noi scendiamo alle più profonde radici del nostro essere umano. E nel riaffiorare portiamo in noi esperienze tali che ci permettono tutto quello che gli uomini, i quali non cadono mai nel pozzo, non comprenderanno mai. Quando si cade nel pozzo si sa anche che essere felici non è poi molto importante. È importante sapere tutto quello che si sa quando si viene su dal pozzo, poiché quando siamo nel pozzo noi accogliamo tutta la sofferenza che è fatta prevalentemente dalla sofferenza delle donne. Siamo benevole con loro, comprensive, affettuose. Ogni donna è pronta ad accogliere e consolare un'altra donna che è caduta nel pozzo, anche se è una nemica. Chi scende nel pozzo conosce la pietà. E come si può vivere, agire, governare con giustizia senza conoscere la pietà? Io credo che le donne debbano soltanto acquisire la consapevolezza delle virtù di quel pozzo e diffondere la luce delle esperienze fatte al fondo di esso, le quali costituiscono il fondamento di quella solidarietà, oggi segreta e istintiva, domani consapevole e palese, che si forma fra le donne anche sconosciute una all'altra. Alba de Céspedes nacque all'inizio del secolo, figlia dell'allora ambasciatore cubano in Italia. Si sentì sempre cubana nonostante la sua patria sia stata l'Italia. Suo nonno era stato il primo presidente di Cuba e l'impegno di Alba per la politica pesca probabilmente da lì. Si sposò e si separò giovanissima e molto presto cominciò la sua attività letteraria, che da subito prese una piega sociale e di impegno per i diritti delle donne. A 27 anni venne pubblicato il suo primo romanzo, Nessuno torna indietro, che la Scuola delle Donne vuole proporre di seguito, che fu un successo internazionale, nonostante il tentativo di censura da parte del regime fascista. Sullo sfondo dell'Italia fascista, Alba racconta le vicende di 8 ragazze di diversa estrazione sociale che abitano tutte in un elegante pensionato per studentesse. Quasi contestualmente usciva anche il romanzo Signorinette di Wanda Bontà, che ebbe anche un seguito, Signorinette nella vita, sebbene il tono sia decisamente più leggero in stile Piccole donne. Alba de Céspedes invece dava voce a una femminilità libera, autoconsapevole, desiderosa di autonomia e di emancipazione dallo stereotipo di angelo del focolare. Impegnata politicamente nella resistenza contro il nazifascismo, dovette fuggire da Roma e riparare in Abruzzo, prima di riuscire a raggiungere Napoli e poi Bari, dove collaborò con Radio Bari, la prima radio libera in Italia dopo l'armistizio. Con lo pseudonimo di Clorinda, Alba de Céspedes raccontava il suo attraversamento delle linee e invitava le donne a resistere e a boicottare il regime. Nella Roma appena liberata dai tedeschi, fondò nel 1944 la rivista letteraria Mercurio, cui collaborarono prestigiose firme femminili quali Sibilla Aleramo e Natalia Ginzburg. Dalla collaborazione col settimanale Epoca nacque, dalla parte di lei, uno dei suoi romanzi più apprezzati, un quadro storico sulla Seconda Guerra Mondiale, la lotta antifascista e la resistenza, unite al racconto della vita interiore della protagonista, la quale, nel vendicarsi del tradimento del marito, vendica tutte le donne che durante la guerra avevano creduto che le cose sarebbero cambiate anche per loro, ma che, a guerra finita, Rimasero invece disperatamente deluse perché nulla cambiò, tantomeno la società androcentrica. Proprio come in Francia, quando le donne combatterono sulle barricate e alla fine della rivoluzione fu tolta loro perfino la cittadinanza. Dalla parte di lei arriva a denunciare una segregazione ancora più penosa e triste, quella operata dalle stesse donne della famiglia, madri, sorelle, zie, cugine, un tema già dolorosamente denunciato da Sibilla Aleramo in Una donna, ascoltabile sul nostro canale. Lascio il link in descrizione. La protagonista uccide il marito e nel farlo uccide l'indifferenza, il sottile disprezzo, il ruolo subordinato alle esigenze della famiglia, l'anaffettività con la quale la maggior parte delle donne dovevano fare i conti nel matrimonio e che la legge non solo giustificava pienamente, ma promuoveva. Proprio negli anni della scrittura di questo romanzo, dalla parte di lei, era accesissimo il dibattito sul diritto di voto alle donne e sulla loro eleggibilità, tenendo in considerazione il ruolo da loro svolto nella resistenza antifascista. Alba vive tra Roma, L'Avana e Parigi, scrivendo e intrattenendo corrispondenze e relazioni con i maggiori intellettuali liberi dell'epoca. Diventa amica, sostiene e dà lavoro nella sua rivista a Sibilla Aleramo, rifugiata a Roma dopo essere scappata da un marito violento e traditore. A 86 anni lascia il corpo a Parigi, prima di riuscire a completare il suo ultimo romanzo, ma subito dopo aver donato tutte le sue carte agli Archivi Riuniti delle Donne presso l'Unione Femminile Nazionale di Milano. Come intellettuale, scrittrice e drammaturga, si occupò a tempo pieno della necessità di recuperare la visione femminile sulla storia e sulla cultura italiana, un tema molto caro alla nostra scuola delle donne. E come sempre accade alla vita e alle opere delle donne, ancorché grandi, il suo nome compare solo qualche volta in qualche corso universitario monografico, ma nulla di più. Alba scrive: "Quando nacqui, mio padre si indispettì perché ero una bambina". E più avanti: "Non di rado le ragazze avevano pazientato molti anni prima di sposarsi perché era difficile trovare un solido impiego. Avevano atteso, preparando il corredo, fiduciose, nella speranza di un'amorosa felicità, e invece avevano trovato quella vita estenuante, la cucina, la casa, il gonfiarsi e lo sgonfiarsi del proprio corpo per mettere al mondo i figli". Man mano, sotto una parvenza di rassegnazione, era nato nelle donne un livido rancore per l'inganno nel quale erano state tratte. Quando la protagonista, di Dalla parte di lei, si lascia coinvolgere nelle attività di un gruppo antifascista, dichiara di non essere spaventata dal pericolo esterno, quanto da una vita segregata tra le mura domestiche, in solitudine, il che ci porta a un'altra grandissima antenata, madrina della nostra scuola, Anna Maria Ribeiro da Silva, meglio nota come Anita Garibaldi. Come Elisabeth von Arnim, Alba de Céspedes dà voce alla ragazza comune, non all'eroina, una delle tante fanciulle ridotte al silenzio dalla società patriarcale che vede nel matrimonio un mero atto di cessione della donna, la quale da proprietà del padre diventa legalmente proprietà del marito. Ricordiamo che lo stesso Mussolini aveva dichiarato: "La donna deve obbedire, nel nostro Stato essa non deve contare", ricordando molto da vicino i padri della Chiesa Cattolica. "Non volevo", scrive Alba de Céspedes, "che si parlasse di far qualcosa per le donne come per essere inferiori o menomati. Volevo che ci lasciassero vivere secondo la nostra indole, anche noi come gli uomini, per il solo fatto di essere nate. Dovevamo avere diritto al rispetto della nostra esistenza". La scuola delle donne è lieta di proporre, di Alba de Céspedes, Nessuno torna indietro. Mondadori editore. Testo integrale scaricato gratuitamente da internet in formato PDF. Da Devana, buon ascolto.